Natale del metalmeccanico, dopo aver firmato l'accordo sui contratti. Alla mogliera mia per Natale ci faccio sto bellissimo regalo, è un regalo che mi è costato 4 mesi di manganellate. Io non capisco perché lo padrone che di me è costruito assai e che si fa chiamare imprenditore con una cucuzza di una capatura. Ci sono voluti 4 lunghi mesi per convincere a sti capoccioni 4 mesi di paga a metà per i metalmeccanici sfruttati. E finalmente moca è Natale, alla mogliera faccio sto regalo e con li conquistate 40 ore avremmo il tempo di fare all'amore. Ma ho sentito che lo mio padrone vorrebbe aumentare la produzione, si addapiglia altra gente a salario, perché io non voglio fare più straordinario. E quanto è bello lo mio padrone, e chiamiamolo imprenditore, duro di capo e tosto di cuore, duro di capo e tosto di cuore. Quanto è bello lo mio padrone, e chiamiamolo imprenditore, duro di capo e tosto di cuore. Quanto è bello lo mio padrone, e chiamiamolo imprenditore, duro di capo e tosto di cuore. Quanto è bello lo mio padrone, e chiamiamolo imprenditore, duro di capo e tosto di cuore. Quanto è bello lo mio padrone, e chiamiamolo imprenditore. Thank you.